per la verità la volta scorsa abbiamo concluso, se vi ricordate, vedendo le proprietà, le cinque proprietà dello Spirito Santo promesso da Gesù che avrebbe inviato agli Apostoli. Oggi proseguiamo ulteriormente, mettiamo subito le slides, vediamo se riusciamo almeno a concludere il discorso di addio, potremmo andare anche speditamente perché dopo il discorso di addio c'è la passione, capitolo 18-19, e poi la risurrezione, i capitoli 20-21, che essendo pagine abbastanza note del Vangelo, quindi andremo a scorrere rapidamente cogliendo le peculiarità con cui San Giovanni presenta questo racconto. Abbiamo capito che questo Vangelo, ma penso che sia chiaro, è, come dire, la raccolta di tutto ciò o di quasi tutto ciò che nei sinottici non c'era. Per esempio questo lungo discorso di addio che Gesù ha fatto nell'ultima cena, e i sinottici non lo conosciamo. I sinottici raccontano soltanto l'istituzione dell'Eucaristia, il tradimento di Giuda, il rinnovamento di Dio e basta. Ma siccome Giovanni era proprio testimone oculare, è vero che anche San Matteo era testimone oculare, che c'era pure lui, però San Matteo ha scritto un Vangelo, è stato il primo probabilmente ad essere scritto, l'ho detto tante volte, probabilmente in aramaico, e diretto quindi alla primitivissima comunità cristiana, e quindi tante cose non erano state proprio conosciute. Ricordiamo sempre che il vero Vangelo di San Giovanni, ci sono le prime eresie comparse nella storia della Chiesa, che sono i docetisti e i nicolaiti, che erano persone che negavano la vera divinità di Cristo. Ecco perché nel Vangelo di San Giovanni Gesù appare sempre maestoso, divino e veramente Dio, perché i docetisti, dal greco docheo in greco significa sembrare, dicevano quelli che dicevano che l'incarnazione di Gesù era soltanto apparente, che non è possibile che Dio si faccia come veramente carne, tangibile, cioè noi queste cose. Dietro queste eresie c'erano anche dei concetti buoni, perché c'era un'idea alta dell'Altissimo, dobbiamo avere, insomma, ti pare che Dio è onnipotente, eterno, immenso, si va a incarnare, proprio a farsi una cosa sola con la carne nostra, e quindi in croce ha sofferto veramente Dio pur nella sua natura umana? Voi sapete che il termine Dio è morto, Gesù dice sì, ma poi io lo chiesi al mio professore di teologia dogmatica, attenzione, che è l'attuale prefetto della congregazione della dottrina della fede. Il prefetto della congregazione della dottrina della fede è stato il mio professore a suo tempo di teologia dogmatica, in particolare di teologia in Italia. Proprio a lui io chiesi, professore, ma è corretto dire Dio è morto? Dio è morto è una contraddizione di termini, scienza, che Dio non può morire. Corretto dirlo? E lui, con la grande sapienza gesuitica, anche adesso quando vedi i documenti che scrive, dico, è proprio lui, è bravissimo, quindi anche equilibrato, ortodosso, per carità, no? Dice, è possibile. Quanto la natura umana assunta, non è che è morta la natura divina o immortale, ma Gesù Cristo in croce era il figlio di Dio incarnato, non è come dicevano i docetisti, perché i docetisti dicevano dinanzi alla crocifissione la natura divina se n'è andata, poi torna alla ragione della risurrezione per riprendersi la natura umana di Gesù morto. No, perché proprio il mistero che noi contempliamo, il capitolo primo del prologo, il verbo si fece carne, non è, come dire, che è stata quindi una sorta di alleanza, cioè la natura umana di Gesù, scusate se vi dico queste cose, sono troppo difficili, fare alzate la mano, non esiste se non in quanto unita alla persona del Verbo. Capite che la nostra natura umana, io sono un uomo, un membro dell'individuo della razza umana, io sono un uomo in quanto individuo, sono una persona, il principio di sussistenza di me è in me, certamente Dio mi ha creato, mi mantiene nell'essere, questo lo sappiamo dalla fede, ma la natura di Gesù non esiste come la mia. Perché se la natura di Gesù non fosse unita alla persona del Verbo, non esisterebbe proprio. Non ha un principio di sussistenza autonoma. Cioè, quando l'arcangelo Gabriele ha detto alla Madonna, guarda che dici? E lei ha risposto, ecco l'ancella del Signore. In quell'istante, Verbo un caro factum est, dice il prologo, il Verbo si fece carne. Cioè, è stata un'operazione istantanea e contestuale. Cioè, è stata creata una natura umana vera nel grembo della legge, ma immediatamente è stata assunta dal Verbo. Questo è che chiamava la Madonna Madre di Dio. non è che è madre di Dio perché ha generato la divinità, cioè, la divinità esisteva da sempre prima di Maria, no? Ma è madre di Dio perché la natura umana creata dallo Spirito Santo immediatamente è stata unita ipostaticamente alla persona del Verbo, per cui non ha un principio di sussistenza proprio. Non si può dire che la Maria, che la Madonna è madre di Cristo, perché Cristo non ha una sussistenza autonoma prescindendo dall'unione di quella natura umana con la persona del Verbo. Non so se sono stato chiaro, questi sono concetti, insomma, cioè per quanto se ne possa capire, capito? Perché qui si può capire entro certi limiti, no? Yes. Bene. L'Alzheimer aumenta, eh? L'Alzheimer aumenta. Io ero convintissimo che voi vedeste le slides. No, io ero convintissimo, dico, stanno vedendo le slides, ma capite, se non ci metti il filo, vabbè, va, pazienza. La vecchiaia e la malattia avanzano. Allora, tutto questo discorso. Quindi adesso torniamo al discorso di addio, dove emerge la grande statura divina del figlio di Dio. Allora, capitolo quindicesimo. Il capitolo quindicesimo è strutturato in due sezioni. Il primo, la vite e i tragici. È da poco passato il tempo di Pasqua, lo ricorderete. Il rimanere in Gesù. Quindi non soltanto il rimanere, quindi San Giovanni su questo è molto chiaro, cioè non esiste possibilità di vita cristiana se non si rimane in Gesù. E capite che indirettamente, questo è il grande problema pastorale dei cosiddetti cattolici non praticanti, un cattolico non praticante è una contraddizione in termini, perché non è possibile, cioè così come una lontananza dall'Eucaristia, quindi dalla comunione eucaristica, è impossibile che realizzi questa cosa qui. Ma se noi non rimaniamo in Gesù, siamo come tracci staccati dalla vita. Cioè, fa parte dell'esperienza della vita cristiana, io vi auguro di viverla, questo si vive con molta calma e senza alcuna depressione, ma rendersi conto, come Gesù dice veramente in questa sezione che adesso leggeremo, senza Lui non possiamo fare niente. Quando una persona acquisisce un pochino di questa, come dire, di questa conoscenza un po' sapienziale, se qualcuno ti fa un complimento, ma non ti fa né caldo né freddo, poi dice, se è uscito qualcosa di buono, non è mio. Perché poi quando uno si va a rivedere, dice, sì, ma l'ho fatto pure mezza cosa buona, ma te la vedi proprio imperfetta. Cioè, l'immagine adeguata, avete visto i frutti, no? Si parla dei frutti, adesso i frutti mezzi marciti, quando una pesca diventa mezza marcia, perciò si fa quella bozza brutta, no? Allora, le cose che noi facciamo, quando non sono marce completamente, un po' marce sono tutte. Per cui uno che la presenta al Signore, si mette sotto terra, si mette, che prende? Che tu sei fatto? Ma se lo fate regalo a me, che mi regalate le mie marce? Cioè, se mi fate regalare a me, mi regalate le mie belle appena cotte, no? Cioè, ma noi purtroppo al nostro Signore riportavamo sempre le mie marce. E con tutta la sicuramente tutta la buona volontà che ti pare, il nostro Signore sicuramente sorride, ma sono sempre marce le mie. Lui se ne via lo stesso, d'accordo? E le latte pure come se avessi regalato la cosa più bella del mondo, ma sono marce, capito? Quindi, sia che te fanno un grande complimento, sia che te fanno, se te fanno un insulto e dici pure se non me lo merito, non me lo merito per questo, ma me lo merito per qualcos'altro. Sapete? Buon'anima di mia cara mamma, ogni tanto me la sgarassona di più. Dice, ma non ho fatto niente, e questo me la pega un'altra volta, ma fatto un'altra cosa, c'è un problema. Mi stanno la mattina e la sera, stavolta non ho fatto niente, pazienza, questo va bene in un'altra, no? Quindi, se qualcuno ti insulta, dici, ma io non ho fatto niente, ma pare che qualche altra volta, tanto comunque ce lo meritiamo. Se qualcuno ti fa una lode, ma veramente non ti fa proprio né caldo né freddo, cioè nel senso che tu dici, cagata, grazie, e tu dici, ma forse non ci credi, ma non c'è, è così, cioè è diverso da quando uno, come dire, fa finta di far unire, no? Dice, ah, uno fa un complimento e tu tatteggi, dici, no, no, detto così, non me lo metto, però dentro di te pensi, ammazza però. Quando tu hai capito bene il discorso della vita e dei tracci, cioè, te parlo, non ti fa proprio né caldo né freddo, alla superbia di che? Ma di che cosa devo, cioè, non c'è niente di cui non possiamo vantarci, veramente, non ci sta, perché in questa vita noi siamo poverelli. Una laurea, due lauree, tre lauree, quattro lauree, no? Io mi sto a prendere tutte le altre informazioni, tutte le cose che girano adesso, capito? Come sono fatti i nuovi vaccini, uno lo segue, la biologia molecolare, le cose, no? Poi io dico, ma ci picchia, so quattro cose, e comincio a pensare a tutto quello che ho studiato al liceo, ma me le ricordo così, così, cioè... ma chi le pensi adesso? Cioè, uno pure se sa qualcosa, sono molte di più le cose che non sa, capito? Quindi siamo proprio così, cioè, soltanto Dio è Dio, noi siamo sempre poveri esseri umani. Allora, la vita è grazia, quindi se non rimaniamo in Gesù, già se rimaniamo in Gesù, che se rimaniamo in Gesù, Gesù dice senza di me non potete fare nulla, con lui qualche cosa la raccapezzate. Sempre, ecco, però almeno qualcosa, ma fuori di lui combiniamo guai. Cioè, quando una persona acquisisce questa percezione, si aggrappa al Signore, cioè non solo le persone che conoscete, però io sono sacerdote, sono anche con esperienza pastorale, no? Nella mentalità comune di molte persone c'è ancora il fatto che se io divento un pochino religioso, faccio un favore al Padre Eterno, capito? Cioè, oh, sono venuto in chiesa a Cipro, vado a favore, ho fatto questa cosa, ma non è così. Un favore lo fai a te, lo fai a lui, perché il nostro Signore non c'ha bisogno di niente di nessuno, non c'ha bisogno di quello che gli portiamo noi. Cioè, io quando faccio le catechesi sui 10 comandamenti, dico, fammi capire una cosa, cioè, tu che perché? Il mio modo di rapportarmi anche con voi è di sollecitare domande, giuste domande, perché tu possa rispondere. Tu devi rispondere a questo, ti do il comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Ah no, ma io non amo nessuno, perché se quello è cattivo, quello mi ha dato a male, ti pare quello, no? Cioè, ci stanno 100.000 obiezioni che da fare, no? Tu dici, perché Dio ti dà un comandamento? Ma tu pensi che Dio, che Dio gli cambia qualcosa, che tu non serve il comandamento oppure no? Ma tu pensi che se bestemmi e gli fai qualcosa al nostro Signore, a lui, che gli fai? Gli fai il vento, gli fai? Il nostro Signore ti sono tutti. Che tu serve o non serve i comandamenti sotto un certo punto di vista, non è che non gliene importa niente, lui gliene importa perché gli dispiace per te. Non perché gli dispiace per lui, cioè se lui dice di fare una cosa, non lo dice per te, lo dice, non lo dice per lui. Allora lui ci dice i comandamenti, specialmente poi quando un comandamento diventa ostico, no? Che contraddice il pensare comune, oppure oggi la mentalità dominante, le cose, ma ti pare che io non lo può fare. Guarda che se non lo fai è peggio per te. Bellissima civica che scrisse San Giovanni Paolo II, no? La vita di Spento è tutto quanto commenta al Vangelo del giovane ricco. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Poi mi disse, che devo fare per avere la vita eterna? Ah, ti interessa? Ti interessa la vita eterna? La vita eterna vuol dire la vita bella. Se la vuoi, la prima cosa è che devi osservare i comandamenti. Quella è la base. Non basta quello, ma quella è la base imprescindibile, perché fuori dai comandamenti la vita non ce l'hai. Ti sembra che ce l'hai, ma non ce l'hai. Quindi se uno non matura questa cosa qui, non ci siamo. Oh. Dopo il discorso della vita eterna, Gesù parla del discepolo dell'odio del mondo, quindi le inevitabili persecuzioni a cui i discepoli di Gesù vanno incontro, perché è inevitabile. Come accennavo con l'omeliola piccolina della messa di questa sera, della materiale, se tu stai con Gesù è inevitabile che che il contrasto appaia. Noi non facciamo la guerra a nessuno, ce la fanno noi. Perché se tu pensi diversamente o ti comporti diversamente, guardate adesso le cose che stanno, cioè le cose che stiamo vivendo, cioè, se una persona pensa in maniera difforme dall'opinione dominante, subito viene additata. Perché quando uno, per qualunque motivo, anche non soltanto per motivi cristiani, esce dagli schemi della maggioranza, tipo con dito puntato, questo è fuori di testa, questo è matto, questo è quello. Allora, purtroppo, se un cristiano è cristiano, questa è una cosa continua, perché sta sempre in minoranza, perché la maggioranza delle persone non pensano come pensa il cielo, forza. Cioè, un cristiano deve sapere che è condannato per una vita a rimanere in minoranza, a sentirsi sempre lo strano della situazione, lo scemo della situazione, avvertire in certi momenti la solitudine, il peso del giudizio altrui, l'incomprensione, eccetera. È inevitabile, è così. Quindi anche a livello ecclesiale, no? Voi sapete che si discute tanto a livello ecclesiale. Se la Chiesa, come dire, allora, in linea di massima occorre promuovere la concordia, la pace, il dialogo a tutti i livelli. Su questo non ci. La seconda, però, a qualunque costo, tutti i livelli va bene, ma a qualunque costo, perché se il costo del dialogo è, allora, per evitare di entrare in conflitto, io smetto di dirti quello che penso. Abbiamo chiuso i battenti. Il dialogo va bene, quindi se è possibile evito le occasioni di frizione, di contrasto, questo è conforme alla volontà di Dio. Ma dinanzi a certe cose, se tu mi dici benedici il male, mi dispiace, questo io non posso fare. D'accordo? Se tu mi dici non dire più la verità, tradisci la verità, non lo posso fare. Questo ha tantissimi ambiti, quindi, e bisogna fare attenzione, perché non dobbiamo avere paura della persecuzione. Persecuzione non vuol dire necessariamente che ci ammazza, la persecuzione è anche, come dire, appunto, l'essere, come dire, marginalizzato, entrare in minoranza, l'essere non ben considerato, fuori dall'altra cosa oggi, cioè, sei medievale, sei integralista, sei fuori dei tempi, insomma tutte le altre cose che vengono dette, no? E il discorso poi conclude in bene, perché Gesù dice, beh, sarete perseguitati, ma l'ultima cosa che dice nel capitolo 16, voi avrete tribolazione nel mondo, ma io ho vinto, sottinteso, voi come me. Però la vittoria presuppone una battaglia, d'accordo? Anche quando Gesù nel Vangelo dice le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa, ma capite che non prevarranno, se uno basta che riflette sull'italiano, poi se va sul greco è ancora peggio, no? Non prevarranno, che significa? Non prevarranno significa che sembra che abbiano vinto, ma quando sembra che vincano, però la devastazione c'è, quindi l'impressione è che abbiano vinto, non dobbiamo mai crederci, e ci sono stati, sono studi della storia della Chiesa, vari momenti nel corso della storia, veramente c'era una desolazione agghiacciante, e poi la Chiesa si riprende, passa da momenti bui a momenti di ripresa, poi un po' più buio, un po' delle riprese, e poi ci sono i grandi momenti profetizzati nel libro dell'Apocalisse, che sono due grandi momenti, il primo e il secondo combattimento escatologico. Andiamo avanti a vedere, ci fermiamo un attimo, io stare al capitolo 17, andiamo a leggere il capitolo 16, così nel capitolo 16 chiaramente troveremo en passant qualche piccola cosa delle cose che abbiamo visto la volta scorsa, quindi dei passaggi in cui il Signore parla dello Spirito Santo che abbiamo già visto, no? Allora, Giovanni 16, prima 15. Andiamo a vedere la vita e tracci. Io sono la vera vita e il padre mio è l'agricoltore. Ogni intraccio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni intraccio che porta frutto lo poda perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me ed io in voi. Come il intraccio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tracci. Chi rimane in me e Dio in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come un traccio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete, vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Ancora, come il Padre amato me, così anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Guardate quante volte ricorre il termine rimangono, rimanete, meno in greco, tantissimi. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore come io ho osservato i miei comandamenti e rimango nel suo amore. E poi vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia in me. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessun amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Voi siete i miei amici se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho detto dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiedete da fare il mio nome lo conceda, questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Quindi, due o tre cose in più. I tracci che non portano frutto vengono tagliati, i tracci che portano frutto vengono potati. Il nostro Signore ci porta di bene in mezzo attraverso le esperienze e le prove e le vicissitudini della vita, che sono celesti potature. Rimanere in Gesù. E poi il fine di tutte queste cose: chi rimane in Gesù, la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concedo. E poi il comandamento nuovo che conosciamo. La seconda parte del capitolo 15 è dedicata, come abbiamo visto, all'odio che incontrano i discepoli. Qui c'è proprio l'odio, Torno un attimo alla versione sinottica, così il termine greco, per chi conosce il greco, è miseri. Misos in greco significa odio, misantropo, misogeno, sentite questi termini, no? Il misantropo è quello che odia gli uomini, il misogeno è quello che odia le donne. Misos in greco significa odio, questa è la parola. Miseo, to hate in inglese, odiare, in senso stretto. Se il mondo vi odia, si mundus vos odisci, tote vi a me priore vobis odio abunt. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Attenzione, qui è il tempo, per chi conosce questa, una finezza, per quelli di voi che ascoltano la nostra catechesi, si conoscono un po' di greco. Sappiate che prima di voi ha odiato me. Attenzione, che il tempo, memisken è un perfetto in greco. Allora, potete sapere che il tempo passato in greco si dice in vari modi differenti, ce ne sono tre. Questo, il perfetto, poi c'è un altro che è l'aoristo e poi c'è un altro che è l'imperfetto. Mo, fate un atto di fede, ma sapete la grammatica greca, lo vedete. Allora, l'imperfetto greco corrisponde all'imperfetto nostro, sarebbe io ero. Quando io dico io ero, sto facendo riferimento ad un'azione che appartiene al passato e che non è stata un'azione puntuale, è andata avanti per un certo tempo, però adesso è finita, appartiene al passato. D'accordo? Noi in italiano abbiamo poi il passato remoto e il passato prossimo, che sono comunque, o anche il trapassato remoto o anche il trapassato prossimo, ma sono sempre tempi che fanno riferimento a delle azioni passate. Allora, il passato remoto e il trapassato remoto sono delle azioni molto lontane, puntuali e finite. Il passato prossimo e il trapassato prossimo sono azioni puntuali, quindi non continuate come l'imperfetto, ma che sono comunque finite. In greco questa è soltanto una... cioè c'è l'aoristo, c'è anche più che perfetto, veramente qua. L'aoristo è l'equivalente del nostro passato remoto, quindi un'azione puntuale avvenuta nel passato e finita, cioè io fui. Il perfetto greco non ha un tempo corrispondente in italiano. Perché? È un'azione che è cominciata nel passato, ma sta continuando i suoi effetti nel presente. L'angelo, l'arcangelo Gabriele, quando saluta la Madonna, dice Haile Maria, che caritomene. Chi conosce il greco, quello è un perfetto medio di carizzo, cioè non dire semplicemente piena di grazia, no, no. Dice, tu, fin da quando fosti concepita, questa nazione passata, avevi una montagna di grazia, sta grazia hai continuato ad averla, ce l'hai tuttora adesso, quindi il perfetto è un'azione che comincia nel passato, mantiene i suoi effetti nel presente e li mantiene. Quindi, attenzione, se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me, quindi da quando io ci sto ha cominciato ad odiarmi, continua ad odiarmi, mi odia e mi odierà sempre. Questo è quello che sta dicendo Gesù. È tanta roba, eh? Quindi il mondo a Gesù lo odia, lo vorrebbe e lo odia, se l'ha spiegato nei capitoli precedenti, perché Gesù porta la verità, dice la verità. Chiunque fa il male odia la luce, non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere, ma chiunque opera la verità, i capitoli precedenti, viene alla luce perché appare chiaramente che le sue opere sono state fatte da Dio. Il mondo a noi ci odia, chiaro che noi rispondiamo all'odio con l'amore, e Gesù anche ha amato coloro che lo odiavano, ma non si è mai conformato al pensiero di quelli che lo odiano. Ai, non sono finezze queste qui, quindi è un passaggio, scusate se mi sono dilungato, ma se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Sapete, quando ero un giovane prete, cioè un pochino di colleghi, di amici, dicevo, come va in parrocchia? Lo vogliono tutti bene. Non sei un gran predicatore. Cioè, è importante che al parroco li vogliano tutti bene, no? Capite l'ironia, no? Se tu predichi, sì, le vogliono bene, ma a volte stai un po' stretto, capito? Sì, le voglio bene, no? No, c'è una predica, insomma, cioè, c'è un pochino di difficoltà, perché inevitabilmente, capite, anche, come dire, i fedeli battezzati oggi, per forza di cose, sono impregnati della mentalità del mondo. Io vi dico, vado a benedire casa, domani pomeriggio avete ammesso il mio caro amico Don Pierpaolo, fino a quando ci starà, che mi basta cortesia, perché così la prendo calma, no? Ma se poi andate a casa nei pomeriggi, spero a casa vostra no, non faccio nomi, ma tutte le televisioni sono accese su una monotrasmissione. Quella monotrasmissione è proprio lo spirito del mondo. Se tu tutti i giorni te vedi quella roba lì, cioè, capite? Noi quello che mangiamo lo assimiliamo, diventa noi. Se tutti, cioè, capito? Non conto chi si vede la diretta in streaming, ma quanti stanno collegati in diretta? Insomma, non tantissimi, no? Se tu bevi il Vangelo, poi piano piano cominci a pensare secondo il Vangelo. Se tu bevi il mondo, poi cominci a pensare secondo il mondo. E che succede? Cioè, c'è una reazione avversa. Perché, e cosa c'è dietro questa reazione avversa? Perché dietro lo spirito del mondo, attenzione, questo è un altro tema tipico del Vangelo di Giovanni, qui nel discorso di addio sono come dei contenuti tanti temi già apparsi. Chi c'è dietro lo spirito del mondo? C'è il diavolo. Il diavolo è l'odio allo stato puro, il diavolo odia Dio, il diavolo odia Gesù Cristo e il diavolo odia noi membri della razza umana, perché il verbo si è fatto carne e non si è fatto angelo. L'odio del diavolo è un odio allo stato puro, per quanto possa sembrare, proprio volere il male. Quindi appena vede arrivare qualcuno che ha a che fare con Dio, quindi ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato, mi perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. E ancora, se io non fossi venuto e non avessi parlato con loro, non avrebbero alcun peccato, questa è l'ignoranza incolpevole. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. E chi odia me odia anche il Padre mio. Qui Gesù dice due cose importanti, la seconda la sta per dire. Se non avessi compiuto in mezzo a loro, cioè il mio ospite, le opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo perché si compisse la parola che sta scritta nella loro legge, mi hanno odiato senza ragione. Se vi leggete la bellissima, c'è una bellissima lettera dei primi secoli, sta nell'ufficio delle letture della liturgia della Grecia, la lettera di Ometo, bellissima, che parla dei cristiani. I cristiani che fanno? Fanno una vita apparentemente simile a quella di tutti gli altri. Lavorano, prendono moglie e marito, ma non fanno gli aborti, non espongono i figli. Si conformano, obbediscono all'imperatore nei limiti del possibile, le leggi che sono giuste, fanno vita sociale, ma hanno una condotta di vita completamente differente e per questo sono odiati, e tanto, che a volte li ammazzano, li portano nei circhi, li fanno suonare lì. Ma se tu chiedi, ma perché li odia tanto questi qua? Dimmi un motivo per cui li odia. Quelli che li odiano non sanno dire il motivo per cui li odiano, sono semplicemente antipatici per principio. Allora Gesù dice due cose. Io ho parlato, e non è difficile anche oggi, no? Questo vi dico sempre, ma io tante cose non le sapevo, dico, ma figlio mio, poi adesso c'è l'era di internet, insomma, dico, non le sapevo, ho capito. Ma avrai sentito dire da qualche parte, insomma, no? Che la Chiesa Cattolica va dicendo in giro che 2000 anni fa è venuto un Signore che ha detto di essere Dio. Ha lasciato dette alcune cose, c'è il Vangelo, no? Cioè, se non avessi compiuto opere che non ha mai compiuto nessuno, io appena celebrato la festa del Corpus Domini, perché non è che Gesù ha smesso di fare miracoli, è che Gesù ha continuato a fare miracoli. Miracoli, come nel Vangelo di San Giovanni abbiamo visto nelle due tesi, sono segni, non sono dimostrazioni incontrovertibili, però sono provocazioni. Ecco perché è sempre importante far funzionare il cervello. Oggi ho avuto un bellissimo dialogo con alcuni amici dove gli spiegavo, come dire, il mio metodo educativo attuale è quello di stimolare il cervello del prossimo, come fa il nostro Signore. Tu te devi fare alcune domande. Se tu sei andato un giorno a Lanciano e tu vedi che lì c'è un pezzo di pane che è diventato carne, l'hanno analizzato, appartiene al pericardio, è sangue vero, è sangue di gruppo AB positivo, ed è storicamente accertato, tu non puoi non farti alcuna domanda, perché quando sarai morto il nostro Signore ti dirà: ah, ma io non ci credevo all'Eucaristia perché qua i preti sono una banda di corrotti, sono tutti pedofili, adesso quello va di monologio, al Vaticano non si sa come combinano gli impicci di cardinali, hanno gli appartamenti, hanno quei, poi il Papa che combina questo, poi ce ne stanno pure due, lasciate. Che significa quel fatto che è successo lì? Tu dici che funziona il cervello, che significa? Devi darti una risposta. Che cos'è? Ci sono le dati, capito? Non sono chiacchiere. Come dinanzi anche a tante cose attuali. Noi abbiamo il dovere di formarci e di informarci. Non possiamo andare dietro, anche se ce l'ha nessuno, ce l'ho manco io. Agire in questo modo è un tipo di scelta, è una scelta conforme alla dignità dell'uomo. Dignità dell'uomo. Tu c'hai un cervello. Se tu t'accodi pedissequamente alla maggioranza, tu stai abdicando e questa è colpa. Questo io dico sempre ai ragazzini, lo dico in continuazione. Quando andrà dall'altra parte, cioè, fa anche la domanda sui comandamenti, ma quella è la seconda domanda, non la prima. Il nostro Signore, se non fosse vero, la prima domanda che ti fa il nostro Signore è: oh, questo l'hai fatto funzionare, questo non lo puoi abdicare, né puoi svenderlo, né puoi chiedere a qualcun altro che lo faccia funzionare al posto tuo, perché il nostro Signore ci tratta così. Le persone libere, difendete sempre la libertà, io sono padre, se volete farmi diventare una bella, se volete diventare miei nemici, che poi vi amo lo stesso perché c'è il Vangelo, ma se volete diventare miei nemici dovete toccare due cose, se le toccate, la libertà e la privacy. Perché WhatsApp se non andate in soffitto, toccano quelle due cose e non li ha più d'accordo, perché la libertà è una cosa sacra, rispettata dal nostro Signore pare che sia per riconoscere la divina volontà, una delle più grandi manifestazioni della divina volontà. Perché il fatto che tante cose vadano come vanno, molta gente se ne prende con palla d'erba perché Dio non fa niente, la risposta è facilissima. Guarda, hai tu una facilità estrema, perché Dio rispetta la libertà delle sue creature. Ci mette certe pezze, cioè non permette che le cose vadano troppo degenerando, non ce ne rendiamo conto, non dall'altra parte, ma fondamentalmente Dio rispetta la libertà delle creature. Perché c'è il peccato originale? Perché Dio rispetta la libertà della Madonna. Perché il diavolo e Lucifero è diventato Satana? Perché gli angeli sono creature libere. Quindi questi sono proprio discorsi proprio. Quindi ho parlato, io sono venuto, io ho parlato, la Chiesa dice che Dio è venuto sulla terra, tu su una cosa ti devi informare. Ti devi informare, devi dire, ma sarà vero o non sarà vero? Non è che sei andato a catechismo, ma trovi a unione la Chiesa e dici, ma sì, si è parlato la canzone a pappagallo, Gesù Cristo chi è? Se sai rispondere, però se fa quando rispondi. Ah, Gesù Cristo è figlio di Dio che è venuto per espiare e per salvarci dai peccati. Ma che significa questo discorso qua? Non ci vedi la mente. Vai a approfondire, io so parlo da tanti anni. Gesù Cristo è figlio di Dio che è venuto a salvarci dai peccati. Ah, sì. Quindi tu che peccati hai? Io? Ah, io nessuno. Ah, quindi che tanto sono da catechismo? Se ti è venuto a salvarci dai peccati, tu c'è nessun peccato, ma dalla mattina che ci fai con lo Signore Gesù Cristo? Che ti piace fare? Non ti serve? Poi il figlio di Dio. Sicuro che è figlio di Dio. Cominciamo a... Ok, vabbè, andiamo avanti. La fine del capitolo 15 è il primo delle cinque cose dette sullo Spirito Santo. Quando verrà il Paraclito, io manderò dal Padre lo Spirito della verità che procede dal Padre, e gli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Questo l'abbiamo visto la volta scorsa, rimando all'incontro precedente. Il 16 prosegue in parte il discorso sulla persecuzione. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Quindi qui Gesù dice: la persecuzione in che senso? Vi scacceranno dalle sinagoghe. Dalle sinagoghe, qui siamo ancora nella prima fase del cristianesimo, si chiama tecnicamente la fase giudaico-cristiana, cioè il popolo di Israele era il popolo eletto, gli apostoli erano tutti giudei, nessuno escluso, ma giudei puro sangue, San Paolo, fariseo da farisei, della tribù di Beniamino, scrive, cioè prima che sono arrivati i grossi pagani convertiti, ce n'è passato un po', li scacciano dalle sinagoghe. Scacciare dalle sinagoghe era la cosa peggiore che potessi fare a un ebreo, proprio, cioè vuol dire che tu sei proprio la feccia assoluta, era la scomunica, diciamo, equivalente alla nostra attuale scomunica. Anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Cioè, con tutto il rispetto, voi sapete che San Paolo, prima di diventare San Paolo, faceva parte di quest'ordine. Lo scrive poi, dice, io ero convintissimo che stavo facendo la volontà di Dio. Questa era una banda di pazzi esaltati che andavano appresso a questo strano soggetto Galileo, e questi bisognava sterminarli perché stavano distruggendo la legge di Mosè. San Paolo, quando scrive, parla anche, come dire, per esperienza vissuta, a gente in buona fede, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Quindi qui Gesù ci anche ammonisce, no? Indirettamente. Altro tema su cui nella mia predicazione, povera predicazione, io spesso ritorno: ma tu sei sicuro che c'hai una conoscenza adeguata di Dio, che tu Dio lo conosci? Che immagine c'hai di Dio? Non trova la testa tua. Perché tu dici, non lo conosco, ma come quelli che erano ebrei, andavano insieme a loro tutti quanti i sabati, leggono la Bibbia, e allora sapete che ci sono alcuni poveri fratellini e sorelline che fanno parte di sette anche pubblicamente note, per sapere tutti quanti chi sono, completamente fuori, cioè non conoscono Dio, anche se pensano di conoscerlo completamente, se conoscono tanta la Bibbia alterata a memoria, e pensano che loro conoscono Dio e noi non lo conosciamo. Chiamano pure i preti ogni tanto, perché vogliono venire a fare la predica pure a me, però la predica la facciamo sui testi originali greci e ebraici, perché se noi non ci parla. Allora lì ci pensano un po', perché se ne trovano qualche vescovo all'altezza, se lo lasciano perdere, insomma, no? Però non hanno conosciuto nemmeno, perché chi ce l'ha con Gesù o con i suoi non ha conosciuto Dio. Perché anche per il nostro Signore vale similes consimilibus. Ci sono delle persone che sono tra virgolette atei, oggi si riesce a chiamare laiche, ma che padre lo conoscono, non lo sanno, non sanno riconoscerlo, non lo conoscono, perché il cervello gli funziona bene. Io tra le tante cose che sto vedendo in questi tempi sciagurati, e lo dico con dolore, intanto non faccio mai nomi, quindi poi chi vuole approfondire, chi può capire sotto tutti i punti di vista capisca. Io sto vedendo molte persone laiche, ma alcune atee, alcune nemiche di Cristo e della Chiesa, che fanno dei ragionamenti e dei discorsi su alcune tematiche, io dico, guarda, se io da prete devo dire, sottoscrivo dall'A alla Z quello che dice questa persona. E a volte mi ritrovo non nelle stesse situazioni quando parla una persona che dice di appartenere o anche appartiene, come dire, tra virgolette, alla parte giusta. Può succedere. Quindi questo deve sempre farci camminare in spirito di continua conversione, cioè il Signore ci conceda questa grazia. Io posso dire, insomma, che ogni giorno chiedo al Signore, vabbè, insomma, le verità di fede sono verità di fede, non si tocca, no. Cresciamo giorno dopo giorno nella comprensione, nel discernimento, perché nessuno di noi, cioè, sta sicuro al 100% tutto quello che pensa giusto e quel che ha detto questo qua. Noi siamo continuamente in conversione. Vi ho detto queste cose perché quando verrà la loro ora ve le ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio perché ero con voi, quindi vedete, qui questo è il discorso da Dio, si chiama, questo è il testamento spirituale. Quindi prima che Gesù se ne va, dice, attenzione, adesso accadrà. Ma più me ne vado, voi rimanete in me, se non siete rovinati, perché potete scadere al mondo contro, e non è, come dire, una scaramuccia, è la guerra mondiale, ok? È la guerra che comporterà sofferenze grosse quanto una casa. Ecco, non ve l'ho dette prima, perché c'ero io a difendervi. Gesù li ha protetti i suoi, ma io adesso parto. Sì, verrà il Consolatore, ma il Consolatore sarà una presenza differente, perché sarà una presenza interiore che devi imparare ad ascoltare. Non è, cioè, noi siamo esseri umani, cioè, immaginate se fosse Gesù vicino a noi che ci mette la mano sulla spalla e dice, però qua sto io. Andiamo a scatenare a fini mondo, capito? Però sì, lo Spirito Santo dice l'abbiamo, però dobbiamo pure raccapezzarci, dobbiamo metterci in sintonia, dobbiamo capire quello che ci dice, quello che ci racconta, no? Quindi non ve l'ho detto perché ero con voi, adesso è il momento di dirle, no? Ecco, poi comincio a parlare dello Spirito Santo, vado veloce perché l'abbiamo viste, dice, sono troppo giù. Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai, anzi, perché io vi ho detto queste cose, la tristezza riempie il vostro cuore. Però io dico la verità, è bene per voi che me ne vada, perché se non me ne vado non verrò voi il paraclito, questo l'abbiamo visto la volta scorsa, no? Se invece me ne vado lo manderò a voi, e quando sarà venuto vi mostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Peccato perché non credono in me, riguardo alla giustizia perché vado al Padre, non mi vedrete più, riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Attenzione, molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Qui poi il Signore fa riferimento allo spirito di verità, cioè non c'erano le cose future, che poi ci porta alla verità tutta intera. Questo fa comprendere che il nostro cammino è graduale. San Paolo usa questa immagine nelle sue lettere, dice: ci sono i lattanti, a un lattante tu gli puoi dare gli spaghetti alle vongole, le cozze e la clementina, perché già i denti e già l'organismo ti ricevono. Il lattante può mangiare il latte della mamma o il latte in polvere, basta. Dopo un po' gli è meglio mettere le papine, poi piano piano, così è la vita interiore. Cioè il nostro Signore, quindi su questo, lui usa una pedagogia sia personale che ecclesiale. Io insegnavo ecclesiologia nella mia specializzazione, c'era la classica domanda, dico sempre questa cosa, per esempio persona, secondo te è meglio la chiesa di oggi o la chiesa di San Pietro, vediamo, di San Paolo? Tutti quanti rispondono, meglio la chiesa di San Paolo. poi la nostra mal ridotta chiesa da adesso, insomma, come dico, sì, la chiesa è mal ridotta adesso, è stato un momento difficile, una tribolazione, un momento di prova, ma globalmente parlando è meglio la chiesa di oggi come patrimonio dogmatico, sacramentale, come esperienza, perché c'ha 2000 anni di vita. Cioè, gli apostoli sicuramente avevano una conoscenza, come dire, confusa, ma se tu dici agli apostoli il dogma dell'Immacolata Concezione, secondo voi capivano bene? Cioè, se tu dici la Madonna c'entra il peccato con la Madonna, sicuramente ti rispondevano no. Ma te lo sapevano? E perché? Cioè, in che senso? In che modo? Come è possibile? Ma il peccato originale ce l'aveva, non ce l'aveva? Cioè, noi adesso sappiamo in che senso, sappiamo tutto. Se tu dicevi agli apostoli, ma senti un po', sai che quando tu spezzi e fai la porzione del pane, quello è Gesù Cristo, sapete cosa ti rispondeva? Sì, senza nessun dubbio. Ma secondo voi sapeva utilizzare un linguaggio come il Concilio di Trento quando ha spiegato la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia? Forse, speriamo, forse no. Quindi la fede era la stessa, ma il grado di chiarezza, il grado di approfondimento cresce col passare del tempo. Quindi sotto questo punto di vista, poi tu mi dici, ah però gli apostoli morivano martiri, e adesso tutti, a parte che martiri stanno adesso, insomma, non ha fatto vero, insomma, questa cosa qui, perché purtroppo in molte parti del mondo molti nostri fratelli e sorelle stanno passando in guardia per la fede, no? Quindi pensiamoci bene, quindi c'è un cammino, quindi le cose di cui non siamo capaci di portare il peso anche nella vostra vita interiore, sapete, anche a un parroco, al di là del nostro amico, cioè tu quando parli con una persona, questo vale tutto nel sacramento della confessione, gliele puoi dire alcune cose subito o devi aspettare che ci arriva da solo? Se gliele dici prima del tempo, io questo non lo si parla col tempo, tu gli dici una cosa alla persona prima del tempo, può essere che l'ammazzi, perché non c'è ancora le spalle opportune. Quindi se tu stai in dubbio da prete, da pastore, che questa cosa è troppo pesante per ora di quella persona, la fede del nostro, se non è una cosa, se è una cosa proprio di vita o di morte o di fede, devi trovare un modo di addolcire la pillola. Ma se non è una cosa di questo genere, devi aspettare che la grazia faccia il suo lavoro in quell'anima, perché se tu parli prima del tempo incorri in questo, tu dai un peso, metti un peso a una persona sulle spalle che la schiaccia, non ce la fai. E se non conosci quella cosa e fa delle stupidaggini, non si possono dire. Non si possono dire. Se non sono mortali, se non sono letali, non si può fare niente. Perché c'è una gradualità, perché dovrebbe insegnare la legge della gradualità, che non è la gradualità della legge, cioè portare le persone piano, e questo ci vuole il tempo. Questo io dico, perché questo che parlo ci stanno da tanto tanto tempo. Perché il tempo ci vuole, per poi dipende anche da quanto il parroco lavora e da quanto la comunità risponde. E qui ne succedono tutti i colori. Qua ci sono santi sacerdoti. Capito? Capito? Cioè, però sicuramente ci vuole il tempo, perché tu non puoi da oggi al domani sparare, cioè arrivi, anche se tu sei tutto, cioè tu stai dinanzi a una comunità che devi vedere il livello che ha. Se il livello è molto basso, per portarlo già ad un livello infantile ci vorranno 10 anni, per portarlo a essere pronti al martirio ce ne vogliono 20, oggettivamente. Poi bisogna vedere quanto lavori e quanto rispondi, no? Perché se hai lavorato poco e male non va bene, se hanno risposto poco e male non va bene, se ci stanno tutte e due con... Quando invece se tu lavori tanto bene e rispondono tanto e bene, andiamo a grande. C'è questa gradualità che proprio si applica eminentemente nelle cose di fede, no? Non siete capaci di portarne il peso. Quando piano piano vedete là lo spirito della verità, che significa? Significa che se tu vedi che una cosa non la puoi dire momentaneamente a una persona, devi confidare nello Spirito Santo che il Signore vi manda e che gliela faccia capire nel cuore. Ecco perché è importante che noi pensiamo. Perché quando noi pensiamo, molte volte pensiamo sotto la spinta, sotto l'input della grazia. E se tu non pensi, vanifichi l'opera della grazia in te. Quindi guardate che quando una persona non vuole pensare, se questo ve lo dico per esperienza, se tu glielo dici direttamente dall'esterno, produci l'effetto contrario. Produci l'effetto contrario, la ribellione assoluta. E c'è anche il rischio che perdi la persona. E non solo che ti diventa nemica, ma diventa nemica della Chiesa e di Cristo, e come tale si comporterà. È un guaio, ragazzi, lo assicuro. Io lo prendo al Signore e dico, ma c'è, io non volevo fare quello che voglio fare, perché cioè è complicato, ragazzi, lo assicuro. Insomma, molte volte uno, che faccio, che non faccio, dico, non dico, non intervengo, aspetto, non aspetto. È così. Non ci si può mai niente. Poi uno ci prega un po' solo e speriamo ho capito bene, fammo così, ma avrò capito bene, boh, speriamo. Il nostro Signore poi vede il cuore, vede le cose, perché uno non lo sa che deve fare molte volte, no? Allora, un poco e non mi vedrete più, andiamo al 16, finiamo questo, un poco ancora non mi vedrete, eccetera, eccetera. Dicevano che cos'è questo un poco? Allora, Gesù qui dice. In verità vi dico, piangerete e gemerete, ma comunque si rallegrerà, sarete una tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Praticamente Gesù annuncia la morte e il ritorno della risurrezione. Continua a ripetere, vedete il mio nome, e conclude. Andiamo alla conclusione, almeno finiamo oggi questa sera, no? E Padre stesso vi amo, in quel giorno chiederete il mio nome, eccetera, eccetera, eccetera. Gli apostoli, finito il discorso. Ora sappiamo che sei tutto, non hai bisogno che qualcuno ti interroghi, per questo vediamo questo scivolamento. Sembrerebbe finita la grande, no? Gesù dice, adesso vedete. Guarda, viene l'oranza, è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e vi lascerete solo. Penso quanto vedete. Ma io non sono solo perché il Padre è con me. Gesù queste cose le ha dette, ma non le ha dette semplicemente perché sapeva benissimo che di lì a poco non erano utili nel presente, erano utili nel futuro. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me, la pace si trova in Gesù nella sua parola. Nel mondo avrete tribolazioni, non abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. L'ultima cosa che dico, Gesù molte cose ce le dice, ma sa bene che alcune cose che ci dice faranno frutti tra 10 anni. Questa è anche la grande consolazione dei parroci. Perché tu parli e te sembra che ma io parlo, prego, come quando sembra sempre che, ma tu questo non lo puoi sapere, perché alcune cose che hai detto oggi, se tra 10 anni porteranno i frutti, quando tu non ci starai più e magari si ricorda qualcun altro, e non fa niente, che tanto la cosa importante è che sia fatta la gloria di Dio per la vita. Beh, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era il principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che vivono nei secoli dei secoli. Amen. Signore, ci concede la sua pace e la vita eterna. Amen. Sei del 2002? Sai che puoi spendere il tuo bonus cultura per abbonarti all'edizione digitale del Corriere della Sera? Registrati a 18app, usa il tuo buono e resta informato per un anno con il Corriere. Hai tempo fino al 28 febbraio 2022. Vai su corriere.it/abbonamenti. Mi stavo chiedendo, quant'era veloce quel servizio? 98 km all'ora. Che colpo, quanto è andato lontano? 229 metri. Quanto hai dormito? 7 ore e 54. Ultima domanda, stai allenando corpo e mente con l'app Mindfulness? Esattamente. Tutti abbiamo delle domande e il nuovo Apple Watch Series 7 ha le risposte sul display più grande ed evoluto di sempre. Il futuro del benessere è qui, al tuo polso. Soggetto a disponibilità, richiede iPhone 6S successivo. App disponibili sull'App Store, iscrizione richiesta.